Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Le scarpe mi stanno strette. L'edicola è aperta. Il pappagallo è rosso. Leonardo beve l'amaro. L'aquila vola. Il gatto sbadiglia. La mucca non dà latte. È cessata la pioggia. Signori, giorno 3 delle trasmissioni dalla ridotta di Viale Monza a Milano e non dagli studi di Radio 24 in Viale Monterosa. Ci sono Alessandro Milan, siamo insieme fino alle 11 per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan, e voi ci siete, cari ascoltatori, ditecelo all'800 24 0024, chiamateci se volete. Vi pregherei di riscoprire i vecchi sms, perché qui dalla ridotta di Viale Monza io non leggo i WhatsApp al 349 238 6666, ma se invece volete mandare i vocali WhatsApp, fate pure con comodo e fate come al solito. 349-238-6666, i vostri messaggi in audio, perché il nostro Lorenzo Nespoli l'Italia, il nostro Giorgino De Luca l'Italia, la nostra Miriam Lucchetti li osserva e la nostra Elisabetta Fusconi dalla Svizzera mette il bollino internazionale e per mandarle in onda. Insieme a Carmelo Lauricella ci siamo in regia. Ci sei, Carmelo? Ci sei? Ci sei? Non ti vedo, quindi continuo a dirti vabbè, ti ringrazio. Va bene, c'è anche Carmelo Lauricella, regia. L'alpino, non ho capito, l'avete mandato alla dunata degli alpini, che chissà se si farà a Rimini, non lo so, l'avete mandato in esplorazione per capire che cosa succederà, ma vabbè, misteri. Dai ragazzi, allora, avete capito, l'Italia è chiusa, è blindata, vorremmo vostre testimonianze, come si vive, come state all'800 24 0024, se siete ligi assolutamente al dovere. Sappiate che se anche dovete fare una passeggiata dovete portare con voi l'autocertificazione. Per la verità ci sono alcune cose misteriose, alcuni dicono per esempio che fare una passeggiata e fare sport all'aperto è consentito, altri dicono di no, nell'interpretazione dello stesso decreto, tant'è vero che ieri sono state date alcune multe a chi circolava in bicicletta, a chi circolava a piedi. Si può portare il cane a passeggio giusto per lo stretto tempo dei bisogni, questo è stato accertato, si può fare. Con questa notizia fondamentale per i vostri cagnolini possiamo partire, vai Carmelo. Enthusiasm about the future. Dai, a maggior ragione, entusiasmo sul futuro, come scrivono molti mettendo i cartelli fuori dai balconi, tutto andrà bene o andrà tutto bene. Io preferisco la formula andrà tutto bene, non tutto andrà bene. Oggi la faccio fare ai miei figli, Angelica e Mattia, la esponiamo qua in Viale Monza, mettiamo andrà tutto bene con i colori dell'arcobaleno, simbolo della pace e si spera insomma anche della rinascita. Allora, Conte, le chiusure ormai le sapete. Che cosa è chiuso, Carmelo? Fammi sentire. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, chiudono anche parrucchieri, centri estetici. Chiudono i servizi di mensa che non garantiscono una distanza di un metro di sicurezza. Per quanto riguarda le attività produttive, le attività professionali, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti, restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione. Vabbè. Insomma, l'elenco. Io quando ho sentito questo ho detto no, Luca c'è. Luca c'è, ti prego, Luca c'è. Luca è il mio edicolante. Luca resisti, e infatti fatti e sono contento. Lui oggi sono andato, cioè lui è venuto a portarmi i giornali gentilmente perché abito proprio a fianco a lui e mi ha detto guarda, noi siamo gli sfigati. Io gli ho detto ma no Luca, sei uno di questi eroi moderni, con tutti quelli che lavorano in prima fila, lo sappiamo, e non lo ripetiamo, medici, infermieri, assistenti ospedalieri, tutti coloro che davvero fanno il lavoro fondamentale per salvare le vite, ma anche gli edicolanti, Luca, l'edicola è aperta, l'informazione in questi casi, ecco, seguendo le regole, portando magari il vostro cagnolino, andate in un'edicola, comprate un giornale, perché l'informazione di questi tempi è fondamentale e ci vuole. Anche Ursula von der Leyen in italiano ci dimostra solidarietà, vai. Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli. L'Italia è parte dell'Europa e l'Europa soffre con l'Italia. In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani. Bello, bello, questo messaggio di solidarietà dell'Europa. Ora ci vogliono anche i dindini, come si suol dire, i soldi, però è un bel messaggio. Abituatevi a questa parola, allora, pandemia. Le parole sono importanti, fanno spavento. Io vorrei un po' tranquillizzare tutti, come ha detto oggi il responsabile infettivologo dell'Istituto Superiore di Sanità Rezza, intervistato da vari giornali, dice al Corriere della Sera, non spaventiamoci per la parola pandemia. Per l'Italia non è che cambia molto, nel senso che lo dice lui, non aggiunge moltissimo, visto che in Italia il virus lo abbiamo già dentro casa da settimane, abbiamo cercato di contrastarlo fin dall'inizio con misure importanti, sono le parole dell'infettivologo Rezza, e quindi l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, piuttosto si rivolge agli altri stati, agli altri paesi, a tutti gli altri paesi europei mondiali, parlando di pandemia, come dire, fate anche voi presto e muovetevi. Vabbè, io avrei tante cose da dire, ma c'è il primo ospite e lo voglio salutare perché è il sindaco di Bari ed è anche il presidente dell'ANCI, quindi il presidente dei comuni italiani, è il sindaco De Caro, che è con noi. Buongiorno e buongiorno, grazie di essere con noi, voi, sindaco. Allora, ci sono queste immagini che l'hanno ripresa in lacrime di fronte a una città vuota, alcuni l'hanno anche criticata, dire un uomo delle istituzioni non deve lasciarsi andare, io questa cosa non la capisco, devo dire, non c'è nessun problema secondo me se uno preso dallo sconforto, dalla delusione, dall'amarezza, o ci dice lei che cosa, si lascia abbandonare anche un momento di lacrime, non c'è niente di male nell'essere umano, però sindaco, lei che dice? Io all'inizio mi sono un po' vergognato, quella era una diretta che stavo facendo per rassicurare i miei concittadini e dire guardate, per fortuna stiamo rispettando le indicazioni, le restrizioni, bar e ristoranti alle 18 hanno chiuso, però a un certo momento può capitare che un uomo si faccia prendere dallo sconforto, anche perché diciamo erano diversi giorni che contemporaneamente dovevo fare da spalla e rassicurare i miei concittadini sulla certezza che supereremo questa emergenza sanitaria. Dovevo fare da spalla a tanti sindaci del nostro paese, da quelli delle zone meno colpite ancora, che ovviamente hanno paura a fare restrizioni per evitare un ulteriore colpo all'economia del nostro paese, a quei sindaci invece del nord Italia, in particolare della Lombardia, non so, Codogno, che sento quasi tutti i giorni, che invece hanno subito un periodo molto complicato dove si è rischiato che il numero dei posti letto per l'emergenza sanitaria, il numero dei posti letto per la terapia intensiva potesse non essere sufficiente per quelli che avevano bisogno della terapia intensiva, e quindi sono arrivato lì in una strada che per me rappresenta anche un simbolo della nostra città, era una strada 10 anni fa dove si parcheggiava in terza fila, è diventata pedonale. Ci sono i tavolini, tanti ragazzi si trattenevano lì la sera, tanti turisti che arrivavano da più parti del mondo. La mia città quest'anno, l'anno scorso, è stata la quinta meta turistica europea secondo l'Only Planet, e di colpo ho visto una città vuota, si è lasciato andare un po', certo, allo sconforto. Sì. Senta sindaco, oggi leggevo sulla stampa l'appello di diceva che non bisogna trattenere le lacrime, quindi mi sono rimorato rispetto a quell'inizio di vergogna che ho provato. L'appello dei medici del sud che ho letto sui vari giornali è: fate presto, i posti sono pochi. Spesso si dice, e magari anche con un certo cinismo, secondo me è sbagliato, se arriva al sud con i numeri del nord, beh, la sanità al sud non è allo stesso livello e rischiamo il collasso. Il tema è che forse questo succederà, cioè non è questione, lo dicono le previsioni matematiche, lo dicono le previsioni mediche, e allora che facciamo? Io sono abituato a stare alle indicazioni che arrivano dalla cabina di regia e quindi delle autorità sanitarie nazionali che stanno studiando in maniera scientifica questa curva utilizzando degli algoritmi. E come ho detto dall'inizio, i sindaci hanno evitato di portare qualunque tipo di opinione, qualunque posizione, anzi abbiamo fatto, credo, una cosa rivoluzionaria nel nostro paese, abbiamo ceduto un pezzo del nostro potere. Sono andato a nome di 8.000 sindaci dal Presidente del Consiglio e gli ho detto: ti consegniamo l'articolo 50 del testo unico sugli enti locali che ci dà la possibilità di fare ordinanze in materia sanitaria. Sul coronavirus ce lo dovete togliere questa possibilità, proprio per evitare che ciascuno di noi potesse avere una posizione. Gli scienziati ci dicono che il picco arriverà in tutte le regioni, dobbiamo però mantenere le indicazioni, rispettare le indicazioni che ci vengono date, le restrizioni, le prescrizioni, proprio per ridurre il numero dei contatti sociali, quindi per ridurre il numero dei contagiati e per ridurre il numero delle persone che avrà bisogno di andare in terapia intensiva. Il problema non è ammalarsi, perché si supera, per fortuna, come abbiamo visto anche con il paziente 1 che dà una speranza a tutto il paese, nel senso che ha cominciato a respirare in maniera autonoma. Il problema è non ammalarsi tutti insieme, perché rischiamo di mandare in tilt le strutture sanitarie. A questo proposito, sindaco, non ammalarsi insieme. Lei è della linea, come il presidente della sua regione Emiliano, che è stato molto duro nei confronti, per esempio, di tutte quelle persone che sabato scorso, prese dal panico, hanno abbandonato le città del nord, Milano, e si sono riversate, alcune anche in Puglia, ovviamente. Lei a queste persone, come dire, imputa qualche tipo di colpa? No, perché in realtà il decreto gli dava la possibilità di tornare, perché nella versione definitiva del decreto c'era scritto che tutti possono tornare nel proprio domicilio, nella propria residenza. Anche l'ultimo decreto, il penultimo, quello di qualche giorno fa, dava la possibilità di ritornare a casa propria. È chiaro che un certo numero di persone che si spostano da una zona contagiata in una zona dove il contagio ancora non c'è, possono creare dei problemi, come è accaduto, perché anche qui non c'è un focolaio autonomo, sono arrivate persone da altre parti d'Italia. La prima persona che è stata contagiata nella mia città veniva dalla città di Bergamo, è una persona che tornava qui tutti i fine settimana e ha contagiato anche la moglie, per fortuna lui in fase di guarigione in ospedale, e la moglie ha contratto il virus ma è asintomatica. Sindaco, io nel ringraziarla, guardi, arriva anche un messaggio di un ascoltatore che dice: siamo umani, non siamo un robot, quindi che problema c'è le lacrime di un sindaco, perché un sindaco è un cittadino come gli altri. Ecco, non vorrei dire la frase abusata, uno vale uno, anche perché non appartiene al suo credo politico, però il concetto in questi casi, sì, siamo tutti esseri umani, non è che, certo, essere sindaco e presidente dell'ANCI ha un ruolo istituzionale diverso, però non è che abbandonarsi un attimo allo scoramento possa, come dire, inficiare la qualità. Può capitare, credo di aver interpretato anche il sentimento che c'è oggi nel nostro paese, un sentimento da un lato di angoscia, nemmeno di paura, perché l'angoscia è qualcosa che si prova nei confronti di qualcosa che non si conosce, e dall'altro lato c'è un sentimento di rivalsa, cioè di volontà di ripartire, e quelle lacrime probabilmente rappresentavano lo scoramento davanti alla mia città. Quella era, è come se fosse casa mia, perché per un sindaco una strada è la propria casa, quindi da un lato lo scoramento nel vedere la propria casa vuota, però anche la speranza di poterci riprendere, di lasciarci alle spalle questa emergenza sanitaria. Certo. Sindaco, io la ringrazio. Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente dell'ANCI. Devo rispondere all'ascoltatrice Carla che ci scrive via sms come si fa ad avere il foglio per l'autocertificazione per uscire a piedi per un percorso di 10 minuti. Serve? Sì. Serve sempre, cara Carla, serve proprio anche per uscire a piedi l'autocertificazione. La trova su tutti i siti, la trova in tutti i modi, ma la può anche copiare su un foglio e scriverla a penna. Il testo lo trova su tutti i siti di informazione. Le dirò di più, Carla, leggevo oggi sul giornale che qualora lei non avesse l'autocertificazione e venisse fermata, può compilarla anche davanti alle forze dell'ordine che la fermano. Quindi insomma non ci sono tutti i modi per andare in giro con questa autocertificazione. Prima di andare al prossimo ospite, mi rimaneva una questione legata a un tema caro, perché si ferma, l'Italia si ferma, c'è il grande tema delle partite IVA, io lo rilancio anche oggi, le partite IVA che fanno, caro Presidente del Consiglio Conte, devono versare gli anticipi fiscali, devono versare i contributi sebbene non stiano incassando niente? Questa è la grande domanda che si fanno tutte le partite IVA, in questo caso partite IVA spesso additate, l'abbiamo detto anche ieri, come coloro che possono magari togliere un euro al controllo del fisco, adesso si ritrovano effettivamente spiantate, con zero fatturato in alcuni casi, eppure devono pagare. Che succede? Come fanno? E poi c'è la grande questione che oggi ho visto su alcuni giornali, l'ho vista sul giornale: Milano è deserta, Milano è bloccata, Milano è ferma, Milano pochi si spostano, spero solo quelli in rispetto delle regole che devono spostarsi. Ci sono solo delle cose che vanno avanti e mi fanno venire in mente un vecchio film, caro Carmelo. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua e è caduto di sacco. Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Sentate. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Insomma, me la ricordate? Perché mi è venuto in mente questo film? Perché pare che a Milano stiano facendo delle multe a tutto spiano alle macchine ferme, certo in divieto di sosta magari, negli spazi gialli, negli spazi blu, senza i dovuti tagliandini, cioè... tutto si ferma, è tutto emergenza tranne la gabella comunale della multa. Io sicuramente avrò preso la multa, spero che non passi un altro vigile e mi dia una seconda multa, poi una terza multa, una quarta multa, tutto emergenza tranne fare cassa. E questo mi ha fatto venire un po' sentire il profumino anche qui dalla ridotta di Viale Monza. Avete la faccia come il culo. Dai, su, di Premione Giachetti, ma voglio andare in Germania, dove saluto Andrea D'Addio. Andrea, buongiorno e grazie di essere qui. Direttore di Berlino Magazine, ci eravamo sentiti anche di recente, Andrea, perché ecco, forse quando si sente la parola pandemia, non devono spaventarsi tanto gli italiani, tanto come ha detto il capo infettivologo dell'Istituto Superiore di Sanità, Rezza, noi il virus ce l'abbiamo già. Forse l'OMS si riferiva per esempio a voi, alla Germania, dove la Merkel ha detto: guardate che il 60-70% dei cittadini lo prenderà sto virus. Che attesa e timore c'è, Andrea, in Germania? Allora, io vivo un'attesa su due fronti, perché da una parte, essendo italiano, ho tanti contatti con la comunità italiana in Germania ed è una comunità spaventatissima. Ed è spaventatissima per una ragione, perché la nostra percezione è che qua non ci sia la stessa attenzione e si stia un po' facendo finta di nulla, soprattutto a Berlino dove siedo. E questo è un timore abbastanza inquietante, insomma, come fare finta di nulla, com'è possibile? Beh, ci sono tutti i locali, quasi tutti i locali sono ancora aperti, ad esempio ieri qua a Berlino è circolato un comunicato da parte dell'associazione dei gestori di club che parlava, sì, che staremo attenti, daremo informazioni, cercheremo di migliorare le situazioni igieniche, addirittura ha detto miglioreremo gli impianti di aerazione, però di fatto cercano di rimanere aperti. Il problema principale è che in Germania ci sono due problemi grossi, due considerazioni da fare. La prima è che la Germania è uno stato veramente federale e quindi ogni città, in quel caso Berlino città-stato, ogni regione decide per conto proprio, a meno che veramente non si arrivasse a un collasso delle strutture, allora lo Stato veramente potrebbe prendere in mano e imporre delle decisioni nazionali. L'altro è che la sanità è gestita in mano semi-privata, quindi non c'è un vero interesse da parte di tanti ospedali, tante cliniche private, che sono le stesse dove vado anch'io, anche se con una tessera sanitaria pubblica, da una parte di fare tanti tamponi, dall'altra, che può essere utile non tanto perché uno deve capire se è malato o no anche se non ha sintomi, quanto per capire quanto debba stare lontano dagli altri. Dall'altra parte il fatto che tanti dati non vengano resi pubblici ed è la ragione per cui il tasso di mortalità per coronavirus in Germania è sotto l'1%. È più basso. Anche la Merkel che dice il 60-70% dei tedeschi lo prenderà, è pragmatismo tedesco che viene vissuto come un'ineluttabile informazione che viene percepita come bene, lo sappiamo, oppure sai, in Italia la gente inizierebbe a dire mi tocco, prendilo tu, tocchiamo ferro, come è la reazione della popolazione tedesca? Devo dire molto più tranquilla di quanto, diciamo, nei limiti, di quanto magari la stessa cosa se fosse stata detta in Italia sarebbe stata recepita dai nostri connazionali. Penso ci sia un po' di pragmatismo e ci sia anche un po' l'idea che probabilmente bisognerà convivere a lungo con questo virus, a lungo che può essere dai mesi, chi lo sa, magari anche un anno. Quindi bisognerà anche arrivare all'idea che sì, sono infetto o sì, c'è il rischio che prenda il coronavirus, la vita deve andare avanti e se davvero non ho altre patologie e sono fortunato, magari la vita comunque continuerà. Penso che ci sia anche un po' un modo di preparare il terreno all'idea che forse dovremmo convivere con questo virus per un periodo che tanti non cominciano a considerare come possibile, ma in verità è più che plausibile. Assolutamente sì. L'ultima domanda, Andrea, te la faccio sul tema del virus. Non siamo esperti noi, ma insomma, da giornalista sai che circola questa convinzione sempre più radicata che il virus abbia fatto il percorso, per quel che riguarda l'Italia, Wuhan, quindi Cina, Monaco di Baviera, dove è stato contagiato un manager tedesco con un contatto per un'azienda che ha filiali in Cina, e da lì il virus sarebbe arrivato in Italia, nella zona di Codogno, dove conosciamo il paziente 1. Quindi lungi da noi, e nessuno lo deve dire, colpa dei tedeschi, come dire colpa dei cinesi, cioè il virus è un virus. Ma questa ricostruzione in Germania è arrivata? Sì, la ricostruzione è arrivata, in verità si parlava anche di questo paziente bavarese già a metà gennaio. Il problema è che non c'era una vera consapevolezza del coronavirus e che bene o male non erano stati registrati, ma qui siamo sempre nel fatto che la sanità tedesca in parte è privata, non erano stati registrati dei casi particolari o dei picchi di polmoniti, quindi è arrivata come informazione ma non c'è una presa di coscienza nazionale, abbiamo avuto il primo paziente, anche perché effettivamente serve una presa di coscienza abbastanza banale, perché non è una reazione a colpa di aver avuto il numero 1, il numero 0, è veramente un discorso che nel pragmatismo tedesco penso giustamente sia stato un po' messo da parte, così come al di là di alcuni racconti fatti da amici italiani qua in Germania che dicono di aver subito almeno all'inizio dello svilupparsi dell'epidemia in Italia un po' di discriminazione, di fatto la vita per gli italiani qua è scorsa in maniera normale, perché questa idea di essere gli untori è stata un po' esagerata, non c'è l'idea nella gente normale, si può fare una battuta ma non c'è una vera discriminazione, c'è solo l'idea di preservarsi. Grazie Andrea D'Addio. Devo dire che mi arriva un messaggio, sto seguendo dalla Svezia, c'era un messaggio dalla Svezia via SMS, qua c'è completa inattività rispetto alla situazione, è una cosa assurda. Ma l'abbiamo abbastanza visto, anche in Italia c'era inattività, poi è scoppiato il primo caso a Codogno e da lì la situazione è questa. Forse bisognerebbe prendere spunto e lezione dall'Italia per una volta, senza essere patriottici inutilmente, e dire lì è arrivata prima e lì si sono mossi. Fare finta che in Svezia non arriverà, che negli Stati Uniti, come ha fatto Trump, che poi ha bloccato di colpo tutti gli aerei dall'Europa agli Stati Uniti questa notte, tranne passando da Londra, non si capisce, per cui io prendo un aereo, vado a Londra, poi da Londra vado a New York e il problema è uguale. Va bene, diciamo che fare finta di nulla è il mezzo e il metodo sbagliato. Io però, andando adesso in pubblicità, vorrei capire se tra poco ci sarà la Vestagliona Manera. Io credo di sì. Abbiamo fatto anche una promessa che sarà collegato con la app di Radio 24. Prima della pubblicità do questa notizia: anche il Torino Calcio, notizia di poco fa, ha annullato tutti gli allenamenti. Ragazzi, dopo il caso positivo di Rugani, Juventus, il campionato di calcio, la stagione di calcio, scordatevela, cioè questione, è finito. Io lo dico io, ma non è una notizia, ma secondo me è finito tutto, campionato di calcio, Champions League, finirà tutto, non so come, ma finirà tutto. Pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Ho appena letto che Ronaldo è andato in Portogallo e tornerà quando la situazione in Italia sarà migliore, ma non è stato a stretto contatto con un contagiato e in teoria non bisognerebbe proprio né muoversi né viaggiare, quindi insomma le regole vale come sempre solo per la povera gente. Milan, ma io entusiasmo per il futuro ce l'ho sempre, è il presente che mi preoccupa. Ma c'è qualcuno che prende le ferie per stare chiuso in casa a guardare la televisione? Magari sì, Però per andare in edicola c'è bisogno dell'autocertificazione, Allora, beh, sulla questione di Cristiano Ronaldo è vero, però forse è partito nel pomeriggio, mentre la notizia della positività di Rugani si è saputa ieri sera molto tardi. Ronaldo era già dalla mamma. Comunque io vorrei sapere se Vestagliona, Pelandrone, Pigmalione, Leonardone è con un noi anche che con sono lei. In bagno, sì. Un momento. Sì, vabbè, dai, su, adesso. In bagno a lavarmi le mani, mi lavo le mani anche se sto in casa mia. Senti anche se non esco, mi lavo bene. Le mani con la mucchina più volte, no? Quando non so cosa fare, siccome il tempo da occupare è duro, anche se sto in casa, vado lì e con la mucchina e con la lavo bene le mani. Sì. Sì, non mi non sembra ho detto uno scoscio quello, da lavaggio di mani. Ma perché scusa, pensate vabbè. Sempre male? Ma no, ma noi io non è che pensiamo male, le... però Leonardo, vabbè, perché... insomma. Comunque la Juventus è lodevole, perché anche quando si tratta del coronavirus arriva prima, quindi vuol dire che qualcosa in più degli altri ce l'ha, secondo me. Hanno vinto lo scudetto del coronavirus anche in questo caso. Io lo assegnerei comunque a loro perché dimostrano di essere sempre un po' più avanti. Ma sì, un po' per scherzare. Ma sì, ma hai ragione, ma la gente ieri anche mi ha scritto, mi ha detto ma tu sorridi, ha detto continueremo a sorridere, come hai detto tu mille volte, come ci ha detto io anche ieri, Gioele Dix, il sorriso è il primo antidoto al dolore, il ghigno della smorfia del dolore che si torce in un sorriso. E dai, su, bisogna anche sì, c'è sorridere. Anche l'altro detto, diciamolo, no? Che il riso abbonda cioè? Sulla bocca degli risus sì, abundat in ore stultorum sulla bocca degli sciocchi degli stolti. Vabbè, esatto, ho capito. Bisogna allora, vedere quale allora, detto è più rilevante. Ma noi siamo più affezionati al primo, dai. C'è, e allora l'abbiamo chiamato questo ascoltatore perché è stato molto gentile, dalla Svezia ci segue, Gaetano Marrone, ci ha detto anche di essere un professore nell'ambito della sanità. Buongiorno professor Marrone, grazie di essere qui. Buongiorno a tutti voi, grazie per avermi allora, chiamato. Lei ascolta Radio 24 e ci ha scritto questo messaggio, in Svezia non stanno facendo niente, com'è possibile? Cioè casi intanto ce ne sono pochi? Sì. Come mai non stanno facendo nulla? Prego, ci racconti. Sì. No, volevo dire, scusate, perché avevo ricevuto un'altra telefonata. Allora, la cosa che ci ha sorpreso, sia a me che ad altri ricercatori, anche italiani, a Stoccolma, è che nonostante in Svezia ci fosse già un numero abbastanza elevato di casi, fino al weekend scorso sono state comunque fatte delle attività tipo il Melodi Festival, c'erano 30.000 persone allo stadio, hanno permesso sì. Attività, fiere, eventi sportivi, eccetera, eccetera. La loro convinzione era che loro, al contrario di altre nazioni, potessero in pratica controllare il virus, cosa che nessun'altra nazione ovviamente è riuscita a fare. Adesso ci sono circa 500 casi in Svezia e hanno... L'unica cosa che hanno detto ieri da Public Health Agency di Svezia è di stare a casa con la febbre e di lavarsi le mani. Hanno adesso vietato gli eventi con più di 500 persone. Sì, diciamo che siete nella situazione in cui eravamo noi 10 giorni fa. Lavatevi le mani, state a casa se potete. Il rischio è che tra 5 giorni diranno no, state a casa davvero, e tra 10 diranno chiudiamo tutto. Allora forse è meglio farlo prima, no? Esatto, perché l'Italia, quando è successo in Italia, non si sapevano bene, cioè era solo successo in Cina, eccetera, eccetera. Quindi adesso l'epidemiologia del virus, anche in paesi europei, ci sono dati molto più, diciamo, sì, a cui si tende a credere di più, come i dati italiani, ed è chiaro che prima o poi le stesse cose che faccio in Italia le hanno fatte ugualmente. Invece si sembra ripetere gli stessi errori. Esatto. No, ma è assolutamente così. Gaetano, noi la ringraziamo perché siamo un po' di corsa, abbiamo anche un ospite che dobbiamo introdurre, ma per questa testimonianza la ringraziamo. Leonardo, senti, ma c'è un ascoltatore che dice: è possibile capire perché nella lista degli esercizi aperti ci sono le profumerie? Io sinceramente questa informazione non la so, sarebbe una sfida Luchetti da fare. Le profumerie, c'è un motivo che bisogna stare magari che si sta insieme marito e moglie in casa per tanti giorni, e quindi si è obbligati a frequentarsi, e se non si vuole favorire tantissimi divorzi bisogna andare ogni tanto a profumarsi, altrimenti sì, le donne sì, si sì. lamentano tendenzialmente, no, dell'uomo che non ha mai un odore particolarmente gradevole, quindi in questo senso la profumeria... Vabbè, aperto. È bello che tu hai una spiegazione per tutto, è anche razionale e logica, è incredibile. Sfida Luchetti, le profumerie sono aperte, non lo so. Come c'è un altro tema, questo davvero è incredibile. Prendi il Corriere, prendi Repubblica, giustamente un ascoltatore ci fa segnalare, uno dice Repubblica che si può fare il giretto in bicicletta, la passeggiata, il Corriere della Sera dice non è consentito andare a correre al parco e fare sport all'aperto, non si può prendere la bicicletta. E molti sono stati multati. Che si fa? Sì, ma io ieri ho sentito ancora un'interpretazione del decreto in cui si diceva che è meglio di no, però si può, a patto di non farlo in situazioni che creino. È meglio di no, però sì, a patto che, ecco, non si creino assembramenti. Quindi allora è così, cari ascoltatori. Allora, meglio di no, però forse sì a patto che. Bene. Questa è l'interpretazione di Leonardo Manera al decreto ministeriale. È tutto molto chiaro. Saluto Patrizia Zanon, che è General Manager di Cambridge University Press Italia. Buongiorno, dottoressa Zanon. Buongiorno a voi. Allora, voi avete fatto un'iniziativa perché è innegabile, guardi, c'è tutta la questione dei ragazzi a casa, i ragazzi che fanno la scuola, i miei figli sono di là rinchiusi, penso, spero, a fare scuola online, però voi avete fatto un'iniziativa importante che traduco così, in pratica avete aperto gratuitamente a tutti insegnanti e studenti la versione digitale dei vostri corsi, la possiamo sintetizzare così? Esattamente. Cosa significa praticamente? Molti saranno interessati, ce lo spieghi bene. Allora, noi abbiamo ovviamente già a disposizione sulla piattaforma del nostro partner tecnologico che è BeSmart i nostri libri digitali, quindi la versione digitale dei libri che noi abbiamo realizzato per l'apprendimento e l'insegnamento della lingua inglese sia a scuola sia in altre situazioni, quali la preparazione, i corsi di lingua, diciamo così, privati per la preparazione delle certificazioni Cambridge. Ovviamente sì. Questo materiale è disponibile normalmente a pagamento, per questa emergenza così particolare e che si sta rivelando così importante e impattante, temiamo anche per il futuro dei nostri ragazzi, abbiamo preso questa decisione appunto di rendere disponibili questi stessi materiali gratuitamente fino alla fine dell'anno accademico scolastico, quindi fino al mi sembra una bella cosa. Come fanno gli insegnanti? Cioè, sono già attrezzati e sanno come fare, però lo spieghi in maniera pratica, chiunque volesse entrare ad avere la disponibilità di questi volumi. Sì, si può collegare alla piattaforma di Bismart, bismart.it, e ovviamente può accedere in questo caso veramente liberamente, quindi senza bisogno di codici né niente, entra e consulta i testi a disposizione, sceglie quelli di suo interesse e può accedere e condividerli. Perché ovviamente lo avete fatto? La domanda può sembrare banale, ma perché lo avete fatto in questa situazione di emergenza? Una cosa meritoria, ovviamente, da sottolineare. Ma perché siamo consapevoli appunto della gravità del momento, perché in questo modo i nostri insegnanti, i nostri studenti possono continuare a svolgere le loro attività didattiche, in questo modo possiamo sperare appunto che l'impatto di questa situazione venga mitigato per quel poco ovviamente che noi possiamo fare. Quindi poi tra l'altro il nostro partner tecnologico ha fatto delle implementazioni importanti, quindi gli insegnanti non soltanto potranno consultare i libri e condividerli con gli studenti, ma avranno la possibilità di fare delle vere e proprie lezioni. Quindi da oggi praticamente c'è a disposizione questo sistema di videoconferencing, quindi potranno concretamente interloquire direttamente con i loro studenti e utilizzare questi materiali. Beh, insomma, mi sembra un'iniziativa importante, noi la ringraziamo e sottolineiamo, perché insomma Patrizia Zanon, General Manager di Cambridge University Press Italia, tutto il materiale è disponibile per studenti, per insegnanti, per coloro che volessero controllare. Caro Leonardo, la situazione d'altronde è questa. Senti un po' qui, vediamo se hai una risposta anche su questo. Zona Lorenteggio a Milano, ci scrive un ascoltatore, ci sono quei punti di distribuzione bevande, sai, quelli H24, in cui la gente entra senza osservare distanze né precauzioni. È consentito, ci dice Lidia? No, allora, non rispettare le distanze e le precauzioni? No, non è consentito. Però saranno dei punti di vendita alimentari, ma c'è maniera qua. Prego, Leonardo. Allora, è meglio di no, però sì, a patto che ci sia molta sete. Ho capito. Sai che, dimmi. Sì, sai che c'è una persona lì a Radio 24 che ti voleva salutare caramente oggi, questa mattina. Si chiama Giorgino De Luca. Ha detto: no, Giorgino De Luca. Allora gli rigo la macchina. Ma no, ancora questa storia. Deve sabotare apposta. Guarda, Giorgio De Luca, se ti trovi la macchina rovinata, bella spregiata, sai già chi è stato. No, ma non è vero, non fa nessun sabotaggio, anzi, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, cari ascoltatori, siamo qui in diretta da Radio 24, ma dalla ridotta di Viale Monza per quel che mi riguarda, dalla ridotta di Piazzale Udine per quel che riguarda Leonardo Manera, che ora ci deve dare delle comunicazioni importantissime. Vai, Leo. Allora, oggi vorrei cambiare un po' tema, perché così, anche per alleggerire un po'. Male. Grazie. Perché in questo clima di pandemia è anche importante alleggerire. Se di alleggerimento si tratta, perché vorrei parlare di matrimonio, argomento pesante e faticoso comunque. In Cina, sì, forse è più pesante. Vabbè. In Cina, per esempio, l'obbligo forzato di stare in casa pare abbia creato un boom di separazioni, che poi non si possono separare davvero perché devono rimanere in casa. Quindi sono i veri separati in casa e potranno lasciarsi solo quando finirà la pandemia. Perciò a una pena deve aggiungersene anche un'altra. E chissà quanti si sono pentiti di essersi sposati. Già un'altra volta ebbi modo di dire che i matrimoni possono durare solo se si vive in una casa grande. Altrimenti la convivenza forzata, magari in un monolocale, porta inevitabilmente al divorzio. Quindi, quando viene fatta una proposta di matrimonio, quando si chiede mi vuoi sposare, bisognerebbe rispondere sì, ma in quanti metri quadri? In base alla risposta, superati almeno i 120 metri quadri, si potrebbe eventualmente accettare. Questa mia teoria, che può sembrare un po' stravagante, è invece stata confermata da un'indagine del Wall Street Journal, secondo la quale oggi si sposano negli Stati Uniti solo le persone laureate e soprattutto ricche, quindi quelle che possono permettersi case grandi in cui evitarsi. Di fatto ci si sposa per poi potersi evitare in casa, altrimenti ci si lascia. È pur vero che una casa grande costa molto, ma è anche vero che poi un eventuale divorzio costerebbe ancora di più. E allora si preferisce spendere di più per una casa, che comunque è sempre un investimento, invece di svenarsi con le conseguenze di un divorzio. Quindi, in modo prosaico, possiamo dire che l'amore è legato al denaro, probabilmente è sempre stato così, ma in questo nostro periodo storico ancora di più. Ricordo bene quando andai a convivere per la prima volta, abitavo in un bilocale, mi resi conto che il rapporto sarebbe finito subito in 50 metri quadri, perciò ho cercato un trilocale e il rapporto è durato più di 7 anni. Vorrei a questo punto rendermi utile e stilare una sorta di tabella a uso e consumo degli innamorati che desiderino sapere che possibilità di durata ha il loro amore al netto dei sentimenti che, si sa, sono comunque destinati a finire rapidamente. Allora, sotto i 30 metri quadri il rapporto non comincia nemmeno, dura un giorno scarso fino al tramonto. Dove abiti qui ti lascio. Allora, casa di 30 metri quadri, durata del rapporto un anno. 50 metri quadri 2 anni, 70-80 metri quadri fino a 5 anni, 100 metri quadri fino a 10 anni purché la casa abbia 2 bagni, 120 metri quadri fino a 15 anni purché con camere separate, ci si trova solo quando ci sono necessità di accoppiamento, 150 metri quadri fino a 20 anni purché si possa cenare separati, uno in cucina e uno in soggiorno. Oltre i 150, 200, 250, 300, il rapporto può durare per sempre perché non ci si vede mai. Per finire, noto che anche la solitudine è un bel problema e lo vedo io che vivo solo in questi giorni di coronavirus. È difficile anche la convivenza con se stessi, così tanto che quasi quasi viene voglia di una moglie. Così almeno da lei ti puoi separare e hai la speranza di ricominciare. Separarsi da se stessi invece per il momento è ancora molto complicato. Visto che finale amaro. Bravo, bravo. Sì, infatti, ma tu lo sai che io oggi i messaggi della ridotta di Viale Monza, la trasmissione, uno dei messaggi di Radio Londra è Leonardo beve l'amaro, oggi per, giusto per i messaggi in codice che mandiamo qui dalla ridotta. Allora, sfida Lucchetti vinta, credo. Attenzione, la lista dei negozi aperti è questa. C'è nella lista dei negozi anche commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toiletta e igiene personale. Giustamente, vedi, se, come hai detto tu, se uno, se l'uomo da, da puzzare, invece no, bisogna profumarsi, no. E bisogna, e bisogna... Sì, questa è un'esigenza richiesta, credo, dalle signore, dalle donne che dicono no, stare con te che anche puzzi, vai almeno in profumeria a prendere un deodorante. Scrive un'ascoltatrice: ho i genitori tutti e due molto anziani, posso uscire di casa per andare lì a fare la spesa? Beh, insomma, allora far la spesa sì, e portare la spesa ai genitori anziani io credo che rientri in quelle situazioni di assoluta necessità, visto che gli anziani devono andare in casa, lei certifica, autocertifica che sta andando a fare la spesa, non è che la sta andando a fare per sé, ma la sta andando a fare anche per i genitori anziani. Penso che non ci siano problemi, ma su questo c'è Leonardo Manera che forse potrebbe dare la delucidazione definitiva. Ma allora è meglio di no, però sì, a patto che i genitori siano veramente anziani, cioè devi girare con una certificazione che dici i miei genitori sono veramente anziani, allora puoi andare. In realtà, dai, la nostra ascoltatrice vuole una risposta seria, io credo, sì, può andare, non vorrei assumermi l'onere di una multa, ma credo che potendo andare a fare la spesa per se stessa può farla anche per i genitori anziani, visto che loro non possono uscire di casa. Samuele dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, vorrei sapere molto indicativamente, perché c'è un decreto ministeriale che non lo dice, io faccio il trasportatore e puntualmente nelle aziende dove ora ci rechiamo, un po' per l'esigenza, un po' perché il nostro lavoro, più che lavoro, è un è una missione adesso, ecco. Ci provano puntualmente la temperatura corporea. Vorrei sapere da voi se è una cosa regolare, è probabile posso oppormi, perché Samuele, non c'è nessun decreto ministeriale che lo dice. No, però Samuele, guardi, è una questione di tutela, adesso noi trasmettiamo da casa, ma fino a quando trasmettevo 3 giorni fa da Radio 24, anche presso gli uffici del Sole 24 Ore, ti misuravano la febbre, perché se uno ha la febbre che è il primo sintomo, non ti fanno entrare, mi sembra anche una precauzione. La prima questione è se uno ha la febbre, quindi i sintomi, deve stare a casa, questo anche prima di adesso che dobbiamo stare a casa tutti, e quindi è una questione di tutela della salute pubblica. Non la veda come un'invasione della privacy, Samuele, la veda come una precauzione, perché lei sta entrando in contatto con altre persone di un'azienda, quindi io comunque, assolutamente sì. Questa della febbre che viene calcolata come febbre a 37,5 è la rivincita di tutti gli uomini. Le donne si lamentavano, dicevano: ah, 37,5 sembra che stia per morire. 37,5 si sta a casa con la febbre. È febbre. 37,5 è febbre. Donne che vi lamentavate degli uomini. 37,5 è febbre. Possiamo lamentarci se abbiamo 37,5 di febbre noi uomini. Ecco. Oh, anche le donne. Però noi ci lamentavamo anche a 37,1. 37,1 sta arrivando la febbre. Va bene, sembra arrabbiato come se avessi di fronte Giorgino De Luca in cucina. Dai, andiamo. Ho saputo che la bicicletta ha avuto lì il buco le gomme della sua bici. Smettila, che non può neanche usarla adesso. Giornale radio, poi la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Vai, Carmelo. Uno Nessuno 100.000. Ronaldo è a trovare la mamma che ha avuto un ictus. Ditegli a quell'anti-juventino che forse faceva meglio a stare zitto. Grazie Alino, meno male ci sei tu. E va bene, e anche Leonardo Manera, seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Anzi, Leonardo, dobbiamo dare questa comunicazione importante: da oggi ci fermiamo alle 10.30, perché poi Nicoletta Carbone dalle 10.30 alle 11 si occuperà con tutte le domande vostre a rispondere con gli esperti. Sì, so che tra l'altro poi tu all'inizio avevi detto fino alle 11, ti eri dimenticato. Ho sbagliato. Sì, perché so che sei un po' con Nicoletta, non sei in buoni rapporti. Ecco, non è vero, non iniziare a seminare zizzaglia ovunque, non è vero. Allora, adesso però, visto che l'appello ormai di stare a casa l'abbiamo detto 1.000.000 di volte, ma quando si sta a casa i ragazzi cosa fanno? Il dubbio ce lo può togliere Mirko Alessandrini, in arte Ciccio Gamer 89. Ben ritrovato Mirko, grazie di essere qui. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccolo qua. Allora, che cosa faranno secondo te i figli a casa? Quello che dovrebbero fare sicuramente studiarsela un po', no? Esatto. Stanno mandando le schede online, eccetera, eccetera. Ma se vogliono divertirsi e stare un po' spensierati, ci siamo anche noi. Sì, ricordiamo che Ciccio Gamer è il gamer di YouTube più seguito d'Italia, io dico 3 milioni di follower, poi correggimi perché magari sono giusto. Uno dei più famosi giocatori di Fortnite online. Ha fatto un appello totalmente superfluo, ha detto: ricordatevi che in caso ci siamo anche noi, cioè non è una cosa che c'è bisogno di ricordare ai figli. Esatto, lo sanno benissimo. Tra l'altro, Leonardo. No, Ciccio Gamer ha pubblicato di recente un libro, ne avevamo anche parlato, edito da Salani, si intitola Ciccio Gamer 89 e le Olimpiadi degli eSport. Tra l'altro, ovviamente è tutto chiuso, però ci sono le librerie online, no? Sì, ci sono le librerie online, ma poi comunque i ragazzi l'hanno comprato e dicendo, quindi sono molto molto contento. Poi, tra l'altro, l'altro giorno abbiamo fatto una diretta streaming dove abbiamo raccolto dei fondi per lo Spalla Anzani di Roma. Siamo riusciti a raccogliere. Ecco, questo è importante. È importante, vorrei che tu lo sottolineassi, perché è importante che le persone che hanno una certa riconoscibilità poi mettano anche a servizio questa riconoscibilità della comunità, no? Tu a questo proposito. Poi così almeno cerchiamo, dato che noi comunque abbiamo una grande influenza sui ragazzi, secondo me se vedono che noi ci attiviamo per la comunità diciamo di stare a casa e gli facciamo capire la gravità, però sotto al nostro punto di vista, secondo me sono anche più riconoscenti e sono molto più partecipi, insomma. Questo assolutamente. Beh, Ciccio Gamer poi era diventato famoso, no? Quella famosa vicenda in cui Gianluigi Nuzzi chiese a Els Fornero, ex ministro, lei conosce Ciccio Gamer, durante un dibattito televisivo, e si materializzò così un po' l'occhio pallato sul volto dell'ex ministro Els Fornero. Che cosa devono fare i ragazzi secondo te? Come devono passare la giornata? Giustamente studiare, poi giocare un po'. Studiare, giocare un po', stare un po' con la famiglia. Io dico anche di cucinare, nel senso che comunque, avendo anche rubriche di cucina, consiglio di cucinare, perché la cucina comunque unisce, perché se metti caso che stanno comunque con la mamma, con i fratellini, eccetera, eccetera, supervisionati, secondo me anche il cucinare può davvero unire una famiglia, insomma. Sì, bisogna capire adesso, però sai che è una solita battaglia, spegni la Play, smettila di giocare a Fortnite, studia di più. Ma i ragazzi adesso che fanno? Adesso veramente stanno bloccati, Morelli, cioè, quindi secondo me bisogna essere anche un pochino più morbidi su alcune regole che magari sono state messe dentro casa in questo periodo qua, è un po' difficile un po' per tutti. Leonardo Manera, tu sei quello che tuo figlio dici, ma sì, gioca tutto il tempo, vero? gioca tutto il giorno con i videogiochi, che io faccio le mie cose, questa è l'educazione che do mio figlio. Questa è l'educazione di tuo figlio. Vabbè, senti, Ciccio Gamer, succede una cosa che ho promesso a mio figlio, non posso non farlo, cioè, perché Mattia, da quando ha saputo ieri che c'era Ciccio Gamer in diretta, mi ha detto no, io impazzisco, devo dire una cosa, ha lasciato anche la scuola virtuale in questo momento, per cui io chiamerei qui Mattia, te lo passerei perché ti voleva salutare. Vai. Ciao Ciccio. Ciao Mattia, ti volevo buongiorno. Dire che sono un tuo fan. Grazie, che guardi i video Mattia. Di Fortnite. Sei gentilissimo, grazie davvero. Ho messo anche il tuo nome in supporto a un creatore. Hai fatto bene, grazie mille. Prego. Ciao. Non ho mai sentito. Hanno parlato in codice praticamente. Sì, ma io non ho mai sentito tuo figlio. Non ho mai sentito tuo figlio parlare con quel tono. Sembra che stesse parlando con Dio. Cioè, sì, esatto. Immagino qualcuno che parla con Dio, immagino che parli così. È vero, capita, è vero. Ma soltanto è così. Non lo so, sì, Mattia, cioè, praticamente saltava, faceva le capriole, era qui che diceva che ora è, io ho detto per la lezione che devi fare il solo, no, che ora è Ciccio Gamer, che ora è, queste sono le cose che capitano. Sì, vabbè, sì. Mirko, voglio ricordare ancora il tuo libro, voglio ricordare questa raccolta per lo Spallanzani, ce la spieghi bene, magari chi vuole contribuire come hai fatto tu. Stavo andando live con me ogni giorno, no? Perché particolarmente adesso che c'è questa stag, io resto a casa, stiamo cercando in particolare io di offrire un servizio ancora più ricco di quello che davamo prima, perché appunto i ragazzi stanno a casa e non sanno che fare, quindi cerchiamo di stare un po' più con loro. E a un certo punto ho deciso di aderire a una raccolta fondi per lo Spallanzani di Roma, perché noi sappiamo che Fedez, la Ferragni hanno fatto la raccolta per l'ospedale di Milano, hanno raccolto più di 4 milioni di euro, sono stati fantastici, però diciamo che anche altri ospedali hanno bisogno comunque del nostro supporto. Io sono di Roma, lo Spallanzani appunto è due passi da casa mia, ho deciso di supportare loro. E insieme a tutti i ragazzi che mi seguono abbiamo raccolto 2.300 euro e ho invitato anche i genitori, i nonni a venire a capire che cosa stavamo facendo. Infatti sono arrivate molte donazioni, anche dicendo guarda, sono qui con tutta la mia famiglia, ecco 5 euro, supportiamo questa tua iniziativa. Perché poi queste sono le cifre, 5 euro, 2 euro, quello che uno può dare, un euro. L'unione fa la forza, questo quando le persone lo capiranno sarà un mondo migliore, perché veramente se nelle mie live siamo 7.000 persone e ognuno donasse un euro, sarebbero 7.000 euro. Certo. Di base dovrebbe funzionare. Grande Ciccio Gamer, stai con noi e ti ringraziamo molto. Mirko Alessandrini, in arte Ciccio Gamer 89, seguitelo con tutti i suoi canali, con tutti i suoi follower. Un abbraccio ovviamente virtuale, visto che siamo noi. Intanto, Leonardo, prima di andare agli ascoltatori, io vorrei sapere, perché ieri ho gettato il panico, molte mamme mi hanno detto: adesso tu hai detto in diretta che hai bloccato il cellulare a tua figlia Angelica. No, ho quegli strumenti di controllo per vedere che cosa guarda. Siccome però l'ho sbloccato adesso per permettere di studiare, Angelica, ti ho sbloccato il cellulare, sì, vero? Sì. Quindi adesso puoi andare a studiare? No, perché ieri il gatto è saltato sulla scrivania e mi ha mangiato i compiti e il telefono. Sì, vabbè, dai, sì, questa veramente è una delle scuse peggiori. Leonardo, ma tu, Beniamino, ma tira fuori queste scuse di questo genere o no? Ma no, mai, perché io non dico mai a mio figlio di studiare. Sì, certo. Quindi non dicendo di studiare il problema non si pone. No, invece avevo un altro problema, magari qualcuno che ha visto il decreto può rispondere, ma credo di sì. Io sono separato, devo andare a prendere mio figlio per vederlo e devo fare un pezzo di strada. È un grande tema. Mi sembra, guarda, di aver capito che si può fare. Nel senso, tu hai lanciato un grande tema e molti ci hanno scritto: come fanno i genitori separati a portare i figli nei giorni di turno? Io credo assolutamente che si possa, ma assolutamente. Anch'io mi sembra di aver letto proprio di sì, che si può. Qualora qualcuno anche perché fosse c'è conoscenza, un ricongiungimento familiare tra un figlio e un genitore, se poi è in due domicili si può assolutamente, quindi si può, o meglio tu hai meglio di no. No, io mi sembra forse di aver capito che si può, non vorrei trovare dei vigili che mi fermano a ripetizione. Vabbè, ma tu fai all'italiana, scusi, sto andando a fare la spesa, poi il prossimo che ti ferma sarà il successivo. Tu dici che la scusa andare a fare la spesa vale di più, sto andando a fare la spesa che sto andando a prendere mio figlio. Si scherza, cari ascoltatori, non sto invitando alla furbizia, era un modo per alleggerire. Io credo davvero che si possa assolutamente ricongiungere il proprio figlio o la propria figlia con il genitore separato, spostandosi. Comunque sentiamo il traffico. One Express, il pallet espresso. Vi presenta. Uno, nessuno, 100 Milan. Sì. Allora, c'è Roberto da Treviso. Buongiorno Roberto. Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo. Scusa un po' per l'emozione. Senta, io sono un ragazzo che ancora a giugno voleva spinare una birra a Leonardo Manera durante uno spettacolo. È vero, mi ricordo. Non ricordo io invece. Com'era ma invece io sì, ma sei veramente tabula rasa nel cervello. Prego, Roberto. No, che era biglietto più piatto di porchetta. Esatto, uno spettacolo in cui c'era la porchetta offerta a tutti gli ascoltatori, cioè tutti gli spettatori. E poi era anche il mio compleanno, lui è stato proprio amaro. No, senta, volevo che non dire ricordo due cose. Niente, veramente. Vabbè, ma non importa, vai Roberto. Innanzitutto vi ringrazio. Senta, volevo dire due cose. Io nel 2009 vivevo a Città del Messico e ho vissuto una cosa molto simile che stiamo proprio vivendo qui in provincia di Treviso. Praticamente c'era l'influenza suina. E all'epoca cosa hanno fatto? Hanno chiuso per 15 giorni tutti i locali, solo per praticamente per asporto. Poi hanno incentivato molto il telelavoro ancora all'epoca, si pensi solo alla Pepsi, come altre aziende, hanno lasciato a casa anche 2000 persone e facevano telelavoro. Questo parlo 2009 in Messico, e poi c'era anche l'esercito per strada, che comunque fornivano mascherine e come si chiama? I saponi igienizzanti. Poi volevo dire un'altra. Questo nel 2009, comunque ci sono stati tanti morti. E poi volevo dire una cosa: io ho la fortuna, anche il piacere per lavoro, di viaggiare tantissimo in giro per il mondo. Qui a febbraio sono stato sia in Giappone che in Corea, mentre 2 settimane fa ero in Canada, Stati Uniti e Messico. Io ho notato che io ero l'unico con la mascherina, l'unico che prendeva anche precauzioni, ma però anche gli staff proprio delle compagnie aeree, nessuno con la protezione, nessuno. Tranne a Venezia, ma questo, Roberto, che controllavano la certo, ma questo, Roberto, l'abbiamo detto, cioè è quella sorta di sottovalutazione che poi speriamo non si debba pagare. Però ringraziando a Roberto da Treviso, sai, Leonardo, che c'è una notizia, ma sai che forse ci siamo liberati di una persona? Che leggevo oggi che c'è una psicosi frontaliera per cui in Svizzera hanno bloccato tutto, la frontiera. Tra l'altro c'è la disperazione perché in Svizzera hanno chiuso anche le case di tolleranza. Sai che ci sono, cioè tu lo sai benissimo, lo so bene, che ci sono. Certo. Lo sai bene. Io ho l'abbonamento, frequentatore. E quindi probabilmente ci siamo anche liberati, ma è stupenda questa cosa di Elisabetta Fusconi che vabbè, se ne starà in Svizzera e questo italiani. Ma che è? Volevo dirvi che non siete soli. No, anche dalla Svizzera mi sento ma di dirvi: si sta bene, ma soli si sta siamo bene. Siamo tutti soli. Italiani. No, sì, dalla Svizzera. Come va? Ciao, buongiorno, vi manco, Leonardo. No, dicevo che sembrano le comunicazioni dell'Istituto Luce, sembrano dal tipo di voce e di collegamento italiani, sembra veramente. Diciamo che era un po' di così quello. Era comunque un po' ce lo richiedi se ci manchi? Vi manco, abbiate il coraggio di dirlo apertamente, col cuore in mano. Io ti rispondo sinceramente, guarda, nel senso che sono qui a casa da solo, quindi mi manca chiunque. E quindi... quindi voglio dire, perfino Elisabetta Fusconi, cioè Manera è stato visto nel sul balcone a richiamare, tentativo di chiamare il pipistrello, così... Pipistrello, pur di avere una compagnia, vero Leonardo? È così. Una conversazione. Comunque ci tenevo a precisare una cosa, io non sono in fuga, io sono qua con una missione, io sono qui a stanare i furbetti del postribolo, quelli che cercano di oltrepassare la dogana per andare nelle varie chiuse del Mendrisiotto e del Luganese. E come funziona questo tuo lavoro per il quale come funziona la moralista Fusconi? Che dovete starvene a casa, sono chiuse le case, chiuse. Non venite qua, non fate i furbetti della dogana, tanto vi fermano e le sono appunto chiuse. Capito Leonardo, è inutile che ci provi, ti hanno già fermato 3 volte mi risulta, a Chiasso, a Brogeda, poi dov'è che l'hanno fermato Fusconi la terza volta? Ma non so, tra l'altro tutte le dogane minori sono veramente chiuse, a parte gli scherzi, hanno lasciato aperte solo le principali per i frontalieri, tutti gli altri vengono rispediti indietro, anche in malo modo mi dicono, quindi cioè, inutile non provarsi. È Leonardo un'autocertificazione, dire sto andando, che ne so, per motivi di forza maggiore, perché... all'oceano, non si può. Va bene, Elisabetta Fusconi, una parvenza di normalità, sì. Devo dire, scuole sono ancora aperte per ora e si respira ancora della pseudo normalità, anche se tutti pensano che a giorni, insomma, arriverà anche. Speriamo di no. Speriamo di no. Qui, sì. In tutto questo, cara Elisabetta Fusconi, ci manchi moltissimo, ma rimani pure al di là dei confini, rimani pure in una terra neutrale e in una terra, insomma, strana. Sappiate che vi seguo anche da qui e continuerò a castigarvi. Sì. Benissimo. Ciao, ovviamente. Vai a lavorare. Caro Leonardo, visto che siamo quasi in chiusura di trasmissione, ci siamo inventati con il nostro Federico Taddia, che saluto. Fede, ciao, buongiorno. Ciao, buona giornata. Allora, Federico che conduce la domenica, lo sapete, con Matteo Bussola ai Padri Eterni alle 11 su Radio 24, e Fede anche un giocherellone, questo lo sappiamo, dai tempi di Papa Pero, bravo, storico qui su Radio 24. E quindi mi ha detto, dobbiamo dare 2 o 3 idee, un paio di idee al giorno, perché bisogna stare a casa e quindi come si passa il tempo? Dai, devi stupirci con giochi speciali, Fede. Ma sì, infatti, perché l'idea è un po' quella della pausa caffè, anche, no? C'è chi fa smart working, i ragazzi un po' studiano, ma ci si può prendere anche una pausa per fare qualcosa. Oggi partiamo con Fantacassetto. Un giro di scommesse, cioè, un giro di scommesse che si può mettere su in casa, perché ho scoperto che ogni casa ha un cassetto che non viene aperto da anni, se ci pensate, no? C'è quel cassetto, una vecchia anta, un comodino, sì, il cassetto, sì. Se ci pensate un attimo, c'è. Io ce l'ho qua di fronte, che... ce l'ho qua di fronte effettivamente. Cioè, sì. Allora, quindi la prima parte del gioco è, insieme ai ragazzi, alle ragazze, alle bambine, trovare questo cassetto, capire qual è il cassetto che da più tempo non viene aperto in casa, lo si lascia chiuso, dopodiché si fa una lista di 10 cose che potrebbero esserci dentro quel cassetto e 10 cose che sicuramente non ci sono dentro quel cassetto, che è più facile no? Mettere quello è che più non facile, c'è. Cioè. Ti vedo e poi? Ti sento no, e poi, no, beh, poi si apre e, poi, e chi sì, vince sì, la scommessa cosa vince? Allora, del gran apre, denario, ovviamente. Ovviamente si apre il cassetto e si guarda chi fa più punti, ok? Ecco. È solo la prima parte, perché Marera, quando ha sentito parlare di scommesse, pensava già di fare no, dei grandi soldoni. Io ho un problema, io questo gioco lo conoscevo, l'ho fatto una volta, solo che mio figlio ha scelto un cassetto dove dentro c'erano delle manette, frustini, cose di latex. Ho dovuto dar delle spiegazioni, non è stato bello, non è stato facile. Infatti questa è la controindicazione del gioco, però vabbè, ma i genitori sanno, quelli cassetti devono essere off limits, quindi vabbè, questo è un ottimo Bella. Gioco è un ottimo che in 10 minuti lo si esaurisce, no? Poi quando vedi veramente cosa c'è dentro quel cassetto, al di là delle manette di maniera, parte l'altra sì. Parte un altro viaggio, no? Perché trovi veramente sì. Cose che da quel tempo non vedi. Sai che prima che ci dici l'ultimo, ma sai che, caro Fede, che Manera passa il tempo, ieri ha passato tutto il tempo a misurare i mobili, la lunghezza, la profondità, l'altezza. Ragazzi, qui c'è della malattia mentale. Sì, no, non lo so. Vabbè, dai, un altro gioco che ci dici in chiusura. Il secondo molto veloce, visto che siamo costretti a stare in casa, ovviamente la proposta è quella di fare un giro del mondo. Allora, cercate un pallone o un palloncino di quelli che si gonfiano. Se avete bella manualità, avvolgeteli con della carta bianca. Se invece con le mani sì. Siete come me, non sapete fare niente, va bene anche un planisfero, perché il gioco è quello di fare o il mappamondo o il planisfero, ma senza usare né Atlante né Google Maps né niente. Quindi avete la vostra bella palla bianca o il vostro sì. Elise, e lì si parte. Prova a chiedere a tuo figlio dov'è la Francia e in ma infatti spazio... ma cioè dicevo ma questo mette la Francia vicino al Marocco, non lo so, il Giappone vicino all'Australia, e anche questo può crescere, continuare, si fa un bel un fanta mappamondo anche qui, poi una volta sì. Che è realizzato andiamo a vedere un mappamondo vero e ci si diverte a capire certo. I tanti errori che sono Fede fatti. sono due giochi bellissimi, appuntamento a domani, ce ne devi dare altri due, noi dobbiamo davvero chiudere con Federico Taddia. Grazie Leonardo, buon caffè, buon tutto, ci ritroviamo domani, adesso Nicoletta Carbone risponderà alle vostre domande con gli esperti, ciao, domani ciao. Uno, nessuno.